11. Il nuovo sviluppo di Gnome e Tron nel periodo tra le due guerre. In qualità di dirigente di Gnome e Tron, Paul Lewis Weller iniziò riorganizzando l'azienda e limitando le produzioni di sostituzione alle motociclette. Inoltre acquistò dalla società britannica Bristol la licenza dei motori Jupiter, motori a cilindri radiali fissi. Osservi quello esposto davanti a lei. D'ora in poi i cilindri non si muovono più. È l'albero motore che ruota al centro, azionando l'elica montata alla sua estremità. Le vicende che segnarono l'omologazione del motore Jupiter in Francia. Paul Lewis Weller acquistò la licenza del Jupiter a condizione di poterla rivendere a tutti i paesi del mondo, eccetto quelli membri del Commonwealth. Questo motore non superò la prova di resistenza imposta dallo Stato francese. Per ottenere l'omologazione di 50 ore, gli ingegneri di Gnome e Tron ridussero il diametro dell'albero motore e ne modificarono la rigidità e la velocità di rotazione. Tuttavia, teoricamente non avevano il diritto di modificare le caratteristiche geometriche del motore. Nella conversione dalle unità britanniche a quelle metriche applicarono però un coefficiente che faceva loro comodo, riuscendo così a raggiungere l'obiettivo desiderato. L'omologazione del motore fu ottenuta nel 1922. Questa nuova versione del Jupiter fu un grande successo commerciale. Molto presto le fabbriche tornarono a funzionare a pieno regime. Gli inglesi furono furiosi, da cui nacque una causa intentata da Bristol contro Gnome e Tron che sarebbe durata fino al 1940. Alla sinistra del Jupiter si trova il motore Titan, la cui licenza fu anch'essa acquistata da Paul Lewis Weller presso Bristol.